in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Scusate un po' la voce un po' più bassa del solito, ma è un raffreddore di inizio autunno-inverno. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo molto economico che riprende le parole dette ieri dal governatore della Banca Centrale Europea alla riunione, la tradizionale riunione autunnale del Fondo Monetario Internazionale a Washington. Il quantitative easing, il QE famoso, finirà, questa politica monetaria che appunto dovrebbe essere uno stimolo per l'economia, avanti con le riforme. Questo l'annuncio molto chiaro fatto da Draghi un po' per smentire i rumors che avevano dato questa fine del quantitative easing molto imminente, ma anche per confermare che no, è una misura a tempo. In prima pagina, anche per quanto riguarda invece le manovre italiane, si sta prendendo forma la prossima legge finanziaria, la legge di bilancio, tutte le misure pronte per la legge di bilancio che arriverà in Consiglio dei Ministri a fine settimana. E Marco Mobili e Gianni Trovati ci raccontano che sarà una manovra da 23-24 miliardi. E il commento di Dino Pesole: trattativa lunga sul filo dei decimali, perché questa trattativa sulla manovra finanziaria italiana coinvolge anche l'Unione Europea, perché se verranno inserite se verranno stanziati dei fondi in più per una serie di cose, bisognerà anche ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea. Molto spazio sul Sole 24 Ore anche alla vicenda di Trump, che avete sentito nei GR, ma fin da ieri sera probabilmente sia online che nei telegiornali. E vi segnalo in particolare il commento di Mario Platero, che è lo storico corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, che si intitola molto semplicemente "Orrendo". E poi un articolo ancora più incisivo, secondo me, di Giulia Carcasi, che poi trovate a pagina 2, "La straripante volgarità di un poveraccio". E vedremo che poi ci sono in realtà anche commenti non così critici sugli altri giornali. Il Corriere della Sera titola invece sul referendum. Sapete, ormai sappiamo che voteremo il 4 dicembre, quindi la campagna elettorale per il sì al referendum costituzionale o per il no si è infiammata veramente durante questi ultimi giorni, e quindi l'ultima mossa di Renzi, per esempio, ce la racconta il Corriere della Sera: Renzi raduna 900 sindaci. E poi quello che viene definito lo strappo di Bersani, che è il leader della cosiddetta minoranza Dem del Partito Democratico: non era mai stato così chiaro nei giorni scorsi, ora lo è stato, dice, il nostro voto sarà un no. Il titolo però principale della pagina al centro riguarda Trump, perché sapete che dopo la diffusione di questo video del 2005 dove, parlando senza sapere di essere registrato, a un giornalista che tra l'altro è imparentato con i Bush, ha detto delle cose, per citare Mario Platero, orrende sulle donne. Poi ieri si è scusato, ma molti pensano che queste scuse non siano necessarie. In realtà la grande attesa, e lo sottolinea anche Massimo Gaggi nel suo commento alla caduta di ottobre, è per il secondo di tre dibattiti faccia a faccia tra Donald Trump e Hillary Clinton, che ci sarà stasera, cioè nella nostra notte, in America. La fotonotizia però è dedicata a una bella storia che ci racconta Claudia Loda, la storia di una bambina nata prematura e pesava solo 420 grammi, ora ha un anno e sta bene, quindi le storie di questi grandissimi progressi che sono stati fatti nella terapia intensiva e nella cura dei bambini prematuri. La Repubblica ha una fotonotizia ancora diversa, è la foto di una manifestazione anti-immigrati dell'estrema destra polacca. Il perché di questa foto è anche che alle pagine 2 e 3 c'è un'esclusiva intervista al leader della destra polacca, Kaczynski, che dice che chiama proprio quella del suo paese, ma anche di altri paesi, per esempio l'Ungheria, la sfida dell'Est per portare questa rivoluzione contro l'Europa. Bruxelles ascolti pure noi o si dissolverà. Sempre in prima pagina però anche un altro titolo che riguarda la giustizia, in questo caso prende spunto da un'intervista che Liana Milella ha fatto al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che dice i PM siano più rigorosi. Lo spunto è un po', l'avrete sicuramente intuito, l'assoluzione, le due assoluzioni più recenti dei politici, cioè di Ignazio Marino per la faccenda degli scontrini delle cene e dell'ex presidente della regione Piemonte Cota per un episodio simile di spese addebitate su carte di credito istituzionali. E il virgolettato che Repubblica riporta è anche quello di ieri del ministro della giustizia, che ha detto la giustizia è usata nella politica, senza fare un chiaro riferimento a queste due vicende di cui ho appena detto, ma è un commento che non è casuale, forse non è arrivato casualmente ieri. Sapete che da circa un mese e mezzo, da quando Tommaso Cerno ha preso la direzione dell'Espresso, il settimanale del gruppo Repubblica L'Espresso, viene venduto insieme a Repubblica la domenica. Oggi la copertina è un disegno che si rifà a un titolo di una delle opere più famose di Immanuel Kant, Critica della ragion pura, e qui il titolo è Critica della ragion grillina. E il disegno è un disegno, non una caricatura, proprio un'illustrazione di Grillo con il cervello scoperchiato e dentro tanti file, appunto cercare di capire, perché nessuno c'è ancora forse riuscito fino in fondo, che cosa muove davvero il Movimento 5 Stelle, ma in realtà probabilmente si tratta anche di un'evoluzione che sta avendo lo stesso movimento. Rivolta e governo, destra e sinistra, purezza e contaminazione, trasparenza e segreti. Ecco che cos'è il Movimento 5 Stelle del 2016 e come sarà quando arriveranno le prossime elezioni. La Stampa invece sceglie proprio di titolare sulla questione di Trump, perché tra le tante cose che si sono dette, soprattutto dopo le parole molto dure del candidato alla vicepresidenza con Trump, Mike Pence, che ieri ha proprio condannato queste frasi, le ha definite le frasi di Trump inaccettabili, e quindi in bilico la candidatura. Non è possibile tecnicamente sostituire un candidato che ha ricevuto la nomination della convention del suo partito, quindi in questo caso Trump. L'unica possibilità sarebbe che lui stesso facesse un passo indietro, a quel punto appunto potrebbe farsi avanti il suo vice. Una fotonotizia ancora diversa per la Stampa, di una vicenda che su molti altri giornali trova poco spazio e che invece ieri sera per esempio ha trovato tantissimo spazio nei telegiornali, ed è quella della caccia all'uomo in Germania, perché i servizi segreti tedeschi hanno individuato, speriamo per tempo, questo rifugiato siriano. Hanno fatto poi irruzione a casa sua nella città di Chemnitz in Sassonia, dove hanno trovato molte armi, ma dell'uomo non c'è traccia. Il Messaggero invece ha un titolo ancora diverso, che è molto concentrato sulla manovra che abbiamo visto sta prendendo forma, e famiglie e imprese, così si cambia. Ecobonus fino all'80% del costo dei lavori e super ammortamenti per le aziende, quindi sembra appunto che verrà prorogato, come molti settori, in primis l'edilizia e quello del design arredo auspicavano, appunto l'ecobonus per chi fa una ristrutturazione edilizia. La fotonotizia però è dedicata a Trump. La foto che è stata scelta non è il fotogramma che poi invece trovate su molti altri giornali di questo video del 2005, ma è la foto di Trump durante un comizio. Alle sue spalle ci sono Ivanka, una delle sue figlie, e la terza moglie Melania. Il titolo: bufera su Trump per frasi sessiste. Il Messaggero azzarda anche il partito lo scarica, anche se non è ancora esattamente così, ma lui ha risposto: non mollo. Titolo ancora diverso per La Verità, il quotidiano fondato due settimane fa da Maurizio Belpietro, che si indaga su una delle più tristi vicende bancarie ancora irrisolte, che è quella della Popolare di Vicenza. Tutti i maneggi della banca che ha rovinato il Veneto. L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, cioè Zunin, tace, ci racconta Stefano Lorenzetto, da 320 giorni, cioè da quando ha ricevuto l'avviso di garanzia. Bruciati 6,5 miliardi, 118 mila soci sul lastrico, 150 filiali già chiuse, però a chi va in rosso di 8 euro telefona il direttore. Questa è tutta la vicenda che viene riraccontata appunto da Stefano Lorenzetto, la trovate poi a pagina 2, e vi leggo solo la parte finale che mi sembra molto efficace. Un esame di coscienza quando? Perché non ha raccolto l'esortazione che Ferruccio De Bortoli le ha rivolto sul Corriere della Sera nel luglio scorso? La gente ha il diritto di sapere almeno che cosa le detta la sua coscienza di fronte a 6,5 miliardi andati in fumo. Un'ultima cosa, lei mi confidò nel nostro primo incontro. Non dimenticherò mai che a 85 anni mio zio Domenico trovò il coraggio di domandarmi scusa. Faccia lo stesso, dottor Zonin, scrive Stefano Lorenzetto. Trovi quel coraggio, chieda scusa. In prima pagina sulla verità anche la vicenda di Trump, e qui appunto vi dicevo il primo commento, tra l'altro firmato da una donna, che non è così critico. Vi leggo le prime parole, poi lo trovate a pagina 16. Un vecchio filmato in cui Donald Trump fa pesanti battute a proposito di un'attrice che poi però tratta con rispetto. È questa l'ultima arma messa in campo da Hillary Clinton, complice il Washington Post, alla vigilia del secondo duello televisivo tra i due candidati. Ma Trump è meglio di come lo dipingono, se lo dice Gemma Gaetani. Ci fermiamo un attimo per una piccola pausa e anche il meteo, ci ritroviamo subito dopo. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a chi sta mandando i messaggi, ringrazio anche Francesco Barbieri da Verona, che però non è d'accordo sul fatto che la campagna per il referendum si sia infiammata. Lui dice che lo ha fatto solo nella testa dei politici e dei giornalisti. Al di là della parola infiammata, che può piacere o no, in realtà si spera proprio che invece questa campagna cominci a far riflettere chi vuole andare a votare su quali sono le ragioni per il sì e per il no. Ma torniamo alle prime pagine. Libero ha un'apertura ancora diversa, ispirata a due fatti di cronaca terribili di ieri. Uno, la donna di 87 anni che è stata violentata da un pakistano di 28, e l'altra un pensionato che in un paese vicino a Siracusa è stato picchiato e poi anche bruciato ed è in fin di vita da quattro ragazzini che io ho addirittura sentito definire bulli. Sono degli assassini, perché se quest'uomo muore, o comunque hanno tentato di uccidere una persona. In ogni caso, il titolo di Libero è Licenza di uccidere i vecchi, e Vittorio Feltri scrive il pezzo di copertina. Vi leggo alcuni dati. In un anno i nonni hanno subito 250.000 furti, 4.500 rapine, 6.000 atti di violenza, 100 omicidi. Dileggiato perfino Caprotti, il fondatore di S. Lunga, che è morto settimana scorsa quando stava per compiere 91 anni. I soli onori per il 96 anni Ciampi, che invece è morto due settimane fa. Carfagna, l'ex ministro Carfagna, pene più severe a chi aggredisce gli anziani. La fotonotizia però è dedicata a Giovanni Minoli, che naturalmente gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene. È un'intervista in cui spiega perché vado alla 7, sapete che Minoli avrà un nuovo programma televisivo sulla 7, e chi mi piace in TV. E trovate l'intervista di Simona Voglino Levi a pagina 27. E poi oggi Libero, sulla prima pagina del Libero, un'altra voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono assai bene, ed è quella di Giuseppe Cruciani, che parla della questione di Trump. Vi leggo le prime righe e capirete il tono del commento, perché come vi dicevo non tutti i commenti a questo video rivelato dal Washington Post, che risale al 2005, in cui Donald Trump dice delle cose orrende, per citare di nuovo il titolo del commento del Sole 24 Ore sulle donne, e in particolare su una, invece appunto non tutti sono così negativi, scrive Giuseppe Cruciani. C'è subito da dire una cosa: è difficile difendere Donaldone nostro quando lo stesso Trump chiede scusa e rinnega se stesso. Il Giornale ha un titolo ancora diverso, è un'inchiesta commentata da Alessandro Sallusti, che poi trovate le pagine 2 e 3, su quanto costa la mala giustizia. Costa 15 miliardi più di una manovra. Ecco, forse questo non è corretto, visto che abbiamo visto che la manovra sarà probabilmente di 23-24 miliardi, però sicuramente una cifra enorme. Flop e risarcimenti, gli errori li paghiamo noi. Spese pazze, 8 politici su 10 sono stati assolti. E questo è qui il riferimento alla vicenda a cui abbiamo accennato di Marino per gli scontrini nei ristoranti di Roma, e di Cota per tutti gli scontrini delle sue spese, tra cui le famose mutande boxer verdi. Avvenire ha un titolo ancora diverso e riguarda lo Yemen. Il titolo è I massacri e le armi italiane. Sapete che c'è stato un raid saudita ieri che ha fatto 155 morti in Yemen, uno dei tanti paesi nel mondo dove ci sono dei conflitti in corso di cui si parla molto poco, e lo spunto anche per parlarne è non solo questo terribile fatto di cronaca con 155 morti vicino a Sanaa, la capitale dello Yemen, ma anche il fatto che a Brescia si indaga sugli invidi e ordigni tedeschi assemblati in Sardegna, un fatto segnalato anche da Avvenire, e quindi appunto il titolo: I massacri e le armi italiane, aperta un'inchiesta sulla vendita di bombe all'Arabia. E questo del commercio di armi, della vendita di armi, di cui purtroppo l'Italia è uno dei principali produttori al mondo ed esportatori, è un tema molto caro anche a Papa Francesco, che quando parla di guerra parla anche appunto della necessità, almeno teorica, auspicabile, di ridurre la produzione di armi, se non addirittura di annullarla. Il Fatto Quotidiano è forse l'unico giornale che non ha in copertina la vicenda di Trump, sono invece due i titoli principali: uno, un'altra presa di posizione per il no al referendum del 4 ottobre, che è quella del governatore della Puglia Emiliano, e poi invece un altro titolo, che è invece un'inchiesta che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena, perché secondo appunto l'inchiesta fatta, che trovate a pagina 2 e 3 del Fatto, le carte segrete che inchiodano il banchiere renziano di MPS. Banchiere renziano sarebbe Marco Morelli, che è appena stato nominato per cercare di risolvere il pasticcio del Monte dei Paschi di Siena. L'Unità titola: L'uomo che odiava le donne, e naturalmente il riferimento è al famoso romanzo Uomini che odiano le donne, quindi tutto dedicato a Trump. Ennesima gaffe, sono un VIP, alle ragazze posso fare di tutto. Poi quelle che l'Unità definisce inutili scuse. Sempre sulla prima pagina dell'Unità una fotonotizia che fa vedere lo striscione Verità per Giulio Regeni, che dopo che era stato rimosso dal sindaco di Trieste dalla facciata del palazzo comunale è stato attaccato di nuovo, questa volta al balcone della sede della regione Friuli Venezia Giulia. Il manifesto Star Trash, il solito titolo così un po' immaginifico, e naturalmente è riferito a Donald Trump, e un approfondimento anche sul referendum. PD per il no, nasce il non comitato, perché in effetti anche se singoli esponenti del PD, naturalmente in primis Massimo D'Alema, hanno senza mezzi termini creato dei comitati per il no, in realtà, come abbiamo visto, altri esponenti del PD, da Emiliano a Bersani, vanno un po' in ordine sparso, quindi non esiste un vero e proprio fronte, un vero e proprio comitato del no. Il Manifesto è l'unico giornale a mettere in prima pagina la marcia di cui avete sentito parlare anche in Oltretevere, tra Perugia e Assisi, in cammino oggi contro tutte le guerre nel mondo e nelle mura domestiche. La Gazzetta dello Sport ha un approfondimento sulla Juventus, e in particolare su Pjanic, che è alla prima stagione in bianconero e secondo la Gazzetta potrebbe fare la differenza. E poi ci sono tutte le opinioni di Champions di Pjanic, che parla anche di quanto sia ottimista sia per il campionato che per il cammino della Juventus in Champions League. Ma veniamo alle pagine interne. Come vi dicevo, sul Sole 24 Ore a pagina 5 gli approfondimenti, le anticipazioni sulla prossima manovra finanziaria, e l'unico giornale, Il Sole, che dà un aggiornamento sulla mini manovra, potremmo dire così, ma molto importante, che riguarda gli aiuti per le zone colpite dal sisma del 24 agosto. Sisma, indennizzo a due vie sulle seconde case. Martedì ci sarà un decreto in Consiglio dei Ministri con un contributo per la ricostruzione fino al 100% nei 60 comuni del cratere e al 50% nelle altre zone. Sempre dal Sole 24 Ore, la prima pagina di Imprese e Territori, un'inchiesta sulle nostre piccole e medie imprese, che spesso si dice sono la spina dorsale dell'Italia, e però da questa analisi fatta sui 145 dossier di crisi aperti al Ministero per lo Sviluppo Economico viene fuori che in realtà queste piccole e medie imprese, come si è detto in realtà molte altre volte, hanno un problema di debolezza finanziaria. Ce lo racconta Matteo Meneghelli e spiega: si amplia il divario con le imprese più competitive, oggi orientate al famoso piano Industria 4.0, che dovrebbe appunto far fare il salto di qualità, soprattutto tecnologico, della manifattura italiana ed europea. A proposito di Bersani, ennesima intervista di Bersani al Corriere della Sera, e il titolo di questa intervista di Monica Guerzoni, che trovate a pagina 11, è "Io trattato come un rottame, l'Italicum cambia, chiacchiere", quindi il conflitto con Renzi sempre più chiaro, e domani c'è questa direzione del PD e, come annunciavano anche altri giornali, appunto per Luigi Bersani dirà no, che voterà no al referendum. Un'altra intervista a proposito di Vittorio Feltri sarà contento, a proposito di persone anziane, qui addirittura è Cesare Romiti, che di anni ne ha 93, e dà un'intervista a Aldo Cazzullo dove racconta, insomma, dice molte cose sull'Italia di oggi. Il titolo scelto da Aldo Cazzullo è "Il paese è da ricostruire come nel dopoguerra", e secondo Romiti 5 Stelle sono comunque una scossa positiva. Una notizia curiosa a proposito di infrastrutture, la trovate a pagina 17, ce lo racconta Guido Santevecchi da Pechino. "Africa Orient Express, è stata inaugurata la ferrovia tra Addis Abeba e il porto di Djibouti, 760 km di binari costruiti e finanziati dai cinesi", e questo è un tema molto interessante perché lo abbiamo letto tante volte anche sul Sole 24 Ore. La Cina sta investendo tantissimo in molti paesi dell'Africa, soprattutto per creare le infrastrutture sostanzialmente per sfruttare le tantissime materie prime che l'Africa ha e la Cina non ha. Ci sono tantissime altre segnalazioni, ma prima della pausa vi segnalo dalla Repubblica un dossier che spiega come dal Trentino alla Sicilia ci sono 170.000 ettari di collina censiti, ma uno su tre è minacciato dall'incuria, cioè il famoso dissesto idrogeologico, che poi quando ci sono piogge esagerate o fenomeni meteorologici eccezionali spesso ha delle conseguenze drammatiche. Un'ultima segnalazione prima della pausa dal Messaggero, che invece a pagina 11 ci racconta l'ennesima notizia un po' da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan. "Politici, la giungla dei vitalizi e la resa di Camere e Regioni. Solo per gli ex parlamentari, pensate, lo Stato spende 193 milioni all'anno ed è un vero caos di norme e direttive. A vuoto le strette annunciate, gli enti locali sono obbligati a stoppare i tagli per il rischio dei ricorsi." Ci fermiamo un attimo però per l'aggiornamento sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dalla Stampa un fatto di cronaca locale, cioè di Torino. La Stampa è il giornale di Torino, che però è un segnale perché è il primo sciopero della sharing economy. Scioperano i dipendenti di Food Ora, che è quella catena di recapito a domicilio del cibo prelevato dai ristoranti che fanno parte di questo network, e le consegne vengono fatte in bicicletta. A Torino sfilano i portacibo in bicicletta, paghe da sfruttamento, e la leader della protesta sindacale dice: "Questi contratti sono al limite del legale, subiamo ritorsioni se protestiamo, le bici sono nostre e ce le dobbiamo aggiustare". Ma il direttore generale di Food Ora, al quale è stato interpellato, dice, risponde: "Devono capire che è un lavoro da tempo libero, cioè un lavoro magari da studenti che, appunto, per integrare, magari per avere un piccolo guadagno, non un vero e proprio stipendio che copra qualsiasi spesa, qualsiasi uscita di un bilancio familiare". Vi segnalo invece dall'Avvenire un approfondimento sul fatto che oggi è la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, e è stata organizzata dalle oltre 70 associazioni che si occupano di queste persone, e saranno coinvolte più di 200 piazze. Tante le storie positive di successo, ma per le famiglie non manca la fatica. Anche all'inizio di quest'anno dobbiamo registrare molte assenze tra gli insegnanti di sostegno, denuncia il presidente di Core Down, Sergio Silvestri. Ma veniamo in questi ultimi minuti ai supplementi domenicali dei giornali. Cominciamo naturalmente dal nostro, del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Matematica e prende spunto da una citazione di Bertrand Russell, filosofo e grandissimo divulgatore. "La matematica, vista sotto la giusta luce, possiede non solo la verità, ma anche suprema bellezza, fredda e austera come quella di una scultura". E il commento è: tra le varie virtù di Martin Lutero non sembra brillare l'ironia, stando almeno ai suoi scritti. Eppure ho scovato una sua battuta folgorante. La medicina crea persone malate, la matematica persone tristi e la teologia peccatori. Certamente non è d'accordo con lui Bertrand Russell, e non tanto per la teologia, essendo il pensatore inglese un agnostico dichiarato, quanto piuttosto per la matematica, della quale ci offre l'elogio così appassionato sopracitato. Devo confessare di essere sempre stato attratto dalla letteratura, eppure in liceo ho ottenuto voti alti anche in fisica e matematica, e questo perché avevo un docente straordinariamente capace di svelare in tali discipline l'armonia suprema che le reggeva. E qui vorrei allargare il discorso alla decisiva funzione che ha un vero maestro. Egli non insegna soltanto, ma fa innamorare della bellezza del sapere. E a proposito di bellezza del sapere e di scoperte, la copertina vera e propria scritta da Dava Sobel, che è autore, autrice tra l'altro di quel libro Longitudine di divulgazione scientifica, appunto, che racconta questa presentazione che c'è stata a Washington di una... di uno straordinario nuova mappa del cosmo. La prima mappa, e tra l'altro la prima mappa risale al 1507, è dedicato questo straordinario sito presentato a Washington, che poi naturalmente prende in esame anche tutte le mappe del cosmo successive. Il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, è dedicato invece alle librerie storiche. Alcune lettere ricevute, come spesso succede, Napoletano prende spunto da alcuni lettori che gli hanno scritto, in questo caso anche proprietari di librerie, e fa l'ennesimo appello perché questo patrimonio, delle librerie storiche, che fa parte del patrimonio culturale italiano, venga salvato. Una recensione di un libro di cui forse avete sentito parlare anche a Si può fare di settimana scorsa, che è il dizionario della stupidità di Pier Giorgio Di Freddi, una recensione non proprio elogiativa, con qualche spunto critico, come forse è giusto che sia. Il titolo della recensione di Paolo Albani è: siamo tutti stupidi tranne me e te. Diverte, ma pecca un po' di presunzione, il dizionario del matematico impertinente, perché il matematico impertinente è il titolo di un altro libro di Pier Giorgio Di Freddi, che batte strade già percorse da Flaubert, Eco e Carrière, che sono tutti autori che si sono esercitati sulla definizione di stupidità molto difficile. Nelle pagine di arte del Sole 24 Ore una lunga recensione di Gabi Scardi alla mostra che è in corso a Firenze, dell'artista cinese, forse il più famoso artista cinese contemporaneo, che è Ai Weiwei, il grande artista protagonista di una mostra a Palazzo Strozzi che si estende al Mercato Centrale e agli Uffizi, mentre il gastronauta nostro Davide Paolini, naturalmente, questa settimana si dedica alla Sicilia. Gastro Tour in Sicilia. Pronti, partenza via. Prima tappa Palermo tra Panelle e Sfincioni, poi a Zonzo, cercando invano il torreggiante timballo di Angelica. Angelica, naturalmente, la protagonista del Gattopardo. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, dedica la copertina a un artista. Questa settimana è Marcello Maloberti. Dall'interno vi segnalo un articolo di Carlo Rovelli, fisico e a sua volta eccellente divulgatore, che ci racconta la storia di uno scienziato medievale, Ramon Lull, l'eremita che immaginò il computer. Filosofia e scienza, l'infinitamente grande, pur nascendo da poche strutture semplici, è più grande di quanto riusciremo mai a pensare. Eppure nel Medioevo Lull aveva capito come affrontarlo. E poi una recensione di un libro secondo me interessantissimo, che si intitola Uccidere Hitler, la storia dei complotti tedeschi contro il Führer. L'ha scritto un tedesco, Danny Orbach, che ha lavorato, è un autore israeliano. E perché dico che è interessante? Perché spesso si pensa che non ci sia stata una vera resistenza a Hitler. In realtà in questo libro si apprende che i militari tedeschi complottarono fin dal 1938, quindi 5 anni dopo l'ascesa di Hitler al potere, contro il dittatore, ma il cedimento franco-britannico a Monaco li paralizzò. Prima progettarono di processarlo, poi durante la guerra di ucciderlo, ma senza successo, come sappiamo. diciamo. E invece, a proposito di contaminazioni, sempre dalla lettura del Corriere della Sera, un lungo dialogo tra Marcello Iori, che è uno scrittore e ha scritto anche tanti fumetti, ha ripubblicato il giornalino di Gian Burrasca pochi anni fa, un lungo dialogo con Neck, il cantante. Musica di provincia si intitola, e Neck dice tra le tante cose: la forza di una canzone è la sintesi, perché in pochi secondi deve staccarti dalla quotidianità. La domenica della Repubblica invece è tutta dedicata alle riflessioni su che cos'è internet oggi, vantaggi e svantaggi, con tantissimi interventi, quello principale del direttore della Repubblica Mario Calabresi. Le interviste straparlando invece di Antonio Gnoli, illustrate sempre dal bellissimo disegno di Riccardo Mannelli, questa settimana l'intervistato è Luigi De Filippo, quando Edoardo ci chiamò sul palco e fece pace con mio padre Peppino. Ultimissima segnalazione da Macro, il supplemento culturale del Messaggero, che si dedica al conclave dei gesuiti. Il titolo è Francesco avrà il suo papa nero, perché così viene definito in modo naturalmente molto che fa ravvisare una critica in questo numero uno dei gesuiti. La Compagnia di Gesù a conclave per eleggere il successore di padre Nicolas, che ha compiuto 80 anni e scrive il Messaggero, la nomina forse condizionata dal pontefice, sappiamo Papa Francesco appartiene ai gesuiti. L'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e ci risentiamo nel prossimo weekend.